Ciao, sono Graziana, non sono una lavoratrice della cultura, ma sono comunque una lavoratrice precaria. Lavoro sia all'interno di un'associazione che si chiama Solidaria, che realizza dei progetti economico-produttivi di mutuo soccorso, i cui protagonisti sono persone italiane, africane, precarie, e che in particolare da 5 anni porta avanti un progetto il cui nome è Sfrutta Zero. Ovvero una filiera del pomodoro che è completamente autogestita, agroecologica e fuori dalla grande distribuzione organizzata, che va dalla coltivazione dei pomodori sino alla distribuzione della salsa di pomodoro. E questa è la parte bella. Poi la parte brutta è che lavoro all'interno di un call center, sono un'operatrice di indagini di mercato. E in questo momento, vista la situazione delicata, mi trovo a dover decidere se andare a lavoro in una situazione che mette a rischio che potrebbe mettere a rischio la mia salute, oppure decidere di non lavorare mettendo a rischio invece il mio reddito. E per quanto riguarda il libro che ho scelto di leggere, visto che oggi è l'8 marzo, ho scelto il libro di un'autrice che è una giornalista, si chiama Cecilia Dalla Negra e il libro si intitola, si chiamava Palestina, storia di un popolo della Nakba oggi. Ho scelto di leggere una testimonianza all'interno di questo libro. Buon ascolto e buon 8 marzo a tutte e tutti. Ma ho della vita che non è stata vissuta. La mia è una storia normale, non credo sia importante come quella di chi ha vissuto traumi terribili. Sei sicura che vuoi che la racconti? Chiede. Mentre stringe tra le braccia la sua bambina, nata da pochi mesi e piena di sorrisi. Ma è una giovane donna palestinese, originaria dal Khalil, Hebron, ma nata in Kuwait. Ha vissuto la sua adolescenza in Giordania e la sua giovinezza in Italia. Qui ha conosciuto suo marito Manal, con cui ha viaggiato per tutta l'Europa. La Palestina, però, non ha mai potuto vederla. Eppure mi sembra di ricordarla, sai? Devo esserci stata in una vita precedente, sorride. Portami lì con il vento e facciamo insieme una passeggiata per i vicoli di Gerusalemme. Salutami ogni città, ogni pietra, ogni palestinese che resiste. Mi aveva risposto così qualche anno prima al messaggio che le avevo mandato da Gerusalemme, inviandole una foto della città vecchia. Io lì, davanti alla porta di Damasco, lei, che ne avrebbe voluto sentire almeno una volta il profumo, chiusa fuori da un confine invalicabile. Ma è figlia di un esilio, e in esilio della sua terra ha vissuto tutta la vita. Appartiene a una generazione che non può ricordare la Nakba, eppure ne porta impressi i segni sulla pelle ogni giorno. Come lei, altri 7 milioni di persone nel mondo, cui ha impedito il ritorno in Palestina e che la propria terra non ha mai potuto accarezzarla. Perché è Israele a controllare i confini? Perché israeliano è l'unico aeroporto esistente? Perché a chi ha origini palestinesi non è concesso neanche lo spazio di una vacanza? La cosa più dolorosa per me è non aver mai potuto conoscere mia nonna. È un pezzo di vita che mi è stato strappato e non ho potuto vivere. Se sua madre ricorda la guerra dei 6 giorni e la fuga verso il Kuwait attraverso la Giordania nel 1967, il primo ricordo di Ma è un'altra guerra, quella che 23 anni più tardi avrebbe portato il popolo palestinese ad errare ancora una volta. Mi ricordo il nonno che prepara le maschere antigas sul tavolo della cucina, le assi di legno inchiodate alle finestre per impedire che i vetri esplodessero a causa delle bombe. Quando Saddam Hussein invase il Kuwait nell'agosto del 1990 avevo 5 anni e i palestinesi di lì a poco si sarebbero dovuti mettere nuovamente in cammino in cerca di luogo sicuro in cui vivere. Il nonno materno di Ma, Mukhtar della famiglia Badr, in Kuwait c'era arrivato all'inizio degli anni 60 in cerca di lavoro. La famiglia era rimasta dal Khalil in attesa del suo ritorno. Ad arrivare però erano stati i soldati, la guerra dei 6 giorni, un nuovo esilio, una vita da ricostruire altrove. Mia madre era convinta che sarebbe tornata, come tutti i palestinesi che negli anni fuggirono. Ma chi se ne andò non poté più fare ritorno, racconta Ma. Mi ha sempre descritto giardini di fronte alla nostra casa, pieni di piante, di vite e alberi di limone. Noi li chiamiamo krum. Delle cose tristi invece no, non ha mai voluto parlare. In Kuwait la madre incontrerà il suo futuro marito, anche lui parte della grande famiglia Badr, anche lui partito in cerca di un futuro. E qui, lontano da casa, nasceranno Ma, sua sorella e suo fratello. Fino all'invasione irachena siamo stati bene, poi siamo dovuti fuggire in Giordania. Abbiamo avuto fortuna perché non siamo mai dovuti passare per i campi profughi. Mio nonno affittò una casa e vivemmo tutti insieme finché non potemmo permetterci di sistemarci altrove. Allora la Giordania era un paese che accoglieva noi palestinesi, a condizione che non ci intromettessimo in questioni politiche. Ricordo bene che nella retorica ufficiale, così come a scuola, la Palestina era un tema molto presente, però si dibatteva di letteratura e poesia, di politica, era meglio non parlarne. Ma ricorda la lunga processione di parenti che dalla Palestina, con il passare degli anni, andava a fargli visita ad Amman. Un'occasione per lei di ascoltare e immaginare un paese dal quale era stata espulsa ancora prima di essere nata. Ogni tanto arrivavano zii e cugini e ci portavano le cose tipiche dal Khalil: le foglie di vite, il dibs, il succo d'uva. È stato così che ho imparato a conoscere le mie origini ed ho imparato a ricostruire la storia della mia famiglia. Così ho scoperto ad esempio che mio nonno paterno era stato un combattente, martire della guerra del 1956. Mi dissero che si era arruolato come volontario insieme alle milizie rivoluzionarie palestinesi. E mentre Ma racconta, sembra quasi di poterla vedere, una bambina che attraverso racconti e ricordi altrui intreccia la trama delle sue radici e le nutre, finché un giorno non accade qualcosa che cambia per sempre la sua vita e la sua percezione delle cose. Saber, in arabo significa colui che porta pazienza, era il nome che la mia nonna paterna aveva scelto per il più amato dei suoi figli, fratello di mio padre. Amu Saber era un'anima bellissima, lo ricordo quando venne a trovarci ad Amman. Quando fu ucciso aveva 37 anni, stava solo pregando nella moschea Ibrahim, ricorda Ma. Saber fu una delle 29 vittime del massacro compiuto da Baruch Goldstein, colono ebreo, insediato dal Khalil, che il 25 febbraio del 1994 fece eruzione alla più importante moschea della città vecchia, aprendo il fuoco sui fedeli raccolti in preghiera. In seguito a quella strage, il volto della città sarebbe cambiato per sempre, i coloni ne avrebbero occupato la gran parte, rendendola l'inquietante spettro di se stessa. Ma aveva 9 anni e di quel giorno ricorda il suo volto scuro del nonno. Le lacrime degli adulti, la lunga processione di amici e parenti che andavano a portare le condoglianze alla sua famiglia, ad Amman. E ricorda soprattutto la morte di sua nonna. Non sopportò il dolore per la perdita del figlio e di lì a poco se ne andò. Dicono tutti che morì di tristezza, racconta. Quando lo fa, è l'unico momento in cui il suo sguardo perde un poco della luce che ha di solito. Mi hanno detto che a casa aveva una grande foto di noi nipoti lontani. Perderla senza averla mai potuta incontrare resta il mio più grande dolore. Quella tragedia per Ma è un punto di svolta. Sapevo già tutto della nostra catastrofe, del futuro, della nostra terra, dell'esilio al quale noi stessi eravamo stati condannati. Ma quell'episodio fu troppo. Capii che qualcosa di profondamente ingiusto ci stava capitando senza che nessuno se ne preoccupasse. Quel giorno iniziò a fare domande e cercare risposte. Da allora non ho mai smesso. Ma conosce il suo paese attraverso i ricordi felici di chi l'ha amato. Quelli tristi, i suoi genitori e i suoi nonni, hanno preferito lasciarli in un cassetto. È così che è riuscito a immaginare la terra intorno alla sua casa, i giardini fioriti, gli agrumeti alle vigne, le colline e gli alberi di ulivo, la sua città dai vicoli affollati, i vetri colorati venduti nel souk, gli odori di spezie che si diffondono nell'aria, l'azzurro del cielo nei giorni di sole. E quando le chiedi cosa abbia significato la Nakba per lei, si ferma e ci pensa un istante. È la vita che non ho vissuto, le persone che non ho conosciuto, tutto quello che è andato perduto. È l'abbraccio che non ho dato a mia nonna. Un dolore vivo il suo, comune a tutti quanti abbiano condiviso lo stesso destino, trasmesso da una generazione all'altra, un esilio dopo l'altro. Vorrei vedere la mia terra almeno una volta, portarci mia figlia, perché le nostre radici sono lì, spiega Ma, con un sorriso sereno e l'aria di chi sta esprimendo un desiderio così semplice, da apparire scontato, se solo quella terra non fosse in Palestina. Vorrei conoscere i krum, di cui ha sempre parlato mia madre. Vorrei vedere le arance, gli alberi di limone, le piante di vite. Ma Nani ha voluto piantare una nel nostro giardino, qui a Varese. La guardo e mi fa sentire a casa.